ringraziare tutti quelli che sono qui, perché siamo noi la forza della valle, siamo noi quelli che fanno la differenza. Ma voglio fare un ringraziamento particolare, voglio fare un ringraziamento alle istituzioni e ai sindaci, e in particolare al sindaco di Venaus, perché in questi due giorni veramente gli hanno fatto vedere i sorci verdi. Ebbene, vorrei un grosso applauso e un grosso sarà dura per lui! Sarà dura! E poi noi dobbiamo essere orgogliosi di aver liberato questo pezzo della nostra valle, questo pezzo dell'Italia, perché non accettiamo questi soprusi, non li abbiamo accettati con il cantiere di Chianocco. Vi ricordate Chianocco? L'abbiamo sbaraccato? Abbiamo sbaraccato anche questo, se ci riprovano la risbaraccheremo! Sono in giro nelle altre città e che combattono con noi. Non ci siamo solo noi, siamo davvero in tanti. Continuiamo a fare le cose meravigliose che abbiamo fatto finora, perché non utilizzando la violenza li abbiamo messi in crisi. Loro sono abituati alla violenza degli stadi, la nostra forza li ha smontati. È vero che abbiamo avuto delle teste rotte, è vero che abbiamo avuto dei nasi spaccati anche oggi, ma quella signora che li ha